Quindi, se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. E ridono, cosa ridete? Cosa? Vi divertite a scrivere cosa dopo? Con voi bisogna dire bugie e fare i ruffiani. Italia sì, Italia no. Italia sì, Italia no, Italia boom. La strage impunita, puoi dir di sì, puoi dir di no. Ma questa è la vita, prepariamoci un caffè, non rechiamoci al caffè, c'è un comando che ci aspetta per assassinarci un po'. Avete riso di noi? Adesso buttiamo giù l'ultima galleria. Poi verrà il momento di buttare giù i vostri pregiudizi. I pregiudizi contro l'Italia e contro gli italiani. Ma saranno Reggio Calabria, diventa un simbolo. Diventa il simbolo di questo 2016. Mamma mia, che permaloso! Altro che petaloso! Permaloso, Renzi! Permaloso, gli stranieri ridono di noi! Più petaloso, Renzi! Meno permaloso! Se dimentichi le pinze, fischiettando ti dirò. Io non voglio passare i prossimi mesi a discutere solo della Salerno Reggio Calabria. Voglio finirla per poi andare in faccia da quei giornalisti che ridevano di noi e dire scusate, prego. Dai, Renzi, hanno fatto una risatina. Mamma mia, che permalosità. Quanti problemi risolti, ma un cuore grande così. Italia sì, Italia no, Italia niamme, se famo tu spaghi. Potete dire di me, potete ridere di Caio, potete ridere di noi, ma non potete ridere dell'Italia. E da questo punto di vista, quello che per me è fondamentale è che l'Italia deve essere più avanti, deve dimostrarsi capace di immaginare storie e sogni nuovi. Non ridete dell'Italia, cari giornalisti stranieri. Adesso ve lo faccio risentire, perché quando il Presidente del Consiglio annunciò la fine della Salerno-Reggio Calabria, credo per il 22 dicembre, prendete nota, segnate sull'agenda, 22 dicembre, voi avete reagito così. So che non ci vedrete, ma il 22 dicembre inauguriamo la Salerno-Reggio Calabria, tenetevi forti. E no, e a ma tutti quelli che hanno fatto saremo costretti a fare un pezzo da Salerno Reggio Calabria, guido io. Ma così, come vi permettete? Anche se la strada va bene, vi sentirete male. Ma come vi permettete di ridere della grande, gloriosa, imbattibile, incrollabile patria italica? Italia sì. Vi veniamo a stanare uno a uno, vi veniamo a prendere uno a uno, tutti sulla Salerno Reggio Calabria, a piedi la fate da Salerno a Reggio Calabria, anche te Peter Bescapè. Sta venendo la faccia tricolore dalla rabbia, tricolore dalla rabbia. Babbarie, queste sono babbarie, diciamo sinceramente, dai, babbarie. La prima una B solo, la seconda con due B. Due B. Vi veniamo a prendere uno a uno, giornalisti stranieri che ridete dell'Italia. Ridete di Renzi se volete. Ridete anche di D'Alema se volete. Ridete anche di Bassolino, ma dell'Italia no. No, dell'Italia no. Primario sì, primario dai. Primario fantasma. È venerdì, ragazzi, ma non è una buona notizia questa. È venerdì, certo, la 149esima settimana decisiva per la chiusura delle province, l'abolizione delle province è andata anche questa inutilmente, ma la 150esima son certo che succederanno delle cose magnifiche. Ottimismo sempre. E allora, con Lorenzo Nespoli in redazione, Peter Bescapè in regia, il nostro alpino, Italia, la patria, i valori, la difesa del suolo natio. Quindi se mai ci vediamo più tardi. Il Parlamento è aperto e voglio subito convocare intanto Luisella Costamagna, che sono sicura riderà di questa nostra Italia un po' così per qualcuno sgangherata, ma ti verremo a prendere, cara Luisella. Ti verremo a prendere quando... Mi hanno già acchiappata, diciamo. Ti verremo a prendere, a finire. Mi unisco al riso dei giornalisti internazionali, eccoli. Rido anch'io da giornalista italiana, anche se non c'è niente da ridere. Eccoli, ti verremo a prendere, ti verremo a prendere poi quando ti chiederemo conto di queste ironie. Sono vendicativi, pure. No, arroganti, no. Autoreferenziali, no. Come dici, ci tocca riapprezzare D'Alema. Oggi D'Alema fa un'intervista di un'intera pagina sul Corriere della Sera, spettacolo, della quale parla l'accusa più tenera che fa ai dirigenti del PD, e sono staliniani. Questa è la cosa più tenera che dice a Renzi in questa pagina di intervista, insieme a Luisella Costamagna, che oggi scrive sul Fatto Quotidiano, anche lei di primarie, non se ne può più di queste primarie. C'è Vladimir, è una persona molto sensibile, Vladimir ha un sentire, come dire, delicato, la nostra Vladimir Luxuria. Eccola qua, buongiorno Vladimir. Sto ridendo delle battute di Berlusconi. Ecco, ridi delle battute precisare. Di Berlusconi. Certo. Ma però dico, Renzi, uno abituato i giornalisti a ridere, perché lui è uno che gli piace molto fare le battute. Quindi forse penso che i giornalisti abbiano scambiato quello che lui ha detto, cioè il 22 dicembre inauguriamo la Salerno Reggio Calabria, per una battuta, perché... No, come una battuta? No, ma che una sei matta? Ma no. Come una battuta? Ma no! Cioè, 22... diceva sul serio? Ma certo, se l'è presa tantissimo. Ieri ha inaugurato un pezzo della Salerno Reggio Calabria e ha detto: e vi verremo a prendere, voi giornalisti che ridevate. No, è serissimo. Il 22 dicembre... E se avessi detto che all'interno del governo c'è un ministro dell'interno che dice che bisogna fare il ponte di Messina alla fine della Salerno-Reggio Calabria, quello invece del Rio dei trasporti dice che non è vero, guarda, e i giornalisti che fanno? Guarda che ha detto che anche il ponte si farà, prima o poi si farà, ha detto. Comunque, guarda che il 22 dicembre, non prendere impegni sotto Natale, 22 dicembre, segnatelo, 2016, tu Luisella hai impegni il 22 dicembre? No, il pacco di Natale non me lo perdo, ma dopodiché è una battuta davvero. Cioè, ma non è una battuta! Non è una, guarda che non era una battuta, inaugureremo la Salerno Reggio Calabria. Siamo abituati alle promesse di Renzi che poi si rivelano farlocche, quindi vabbè. Voi pensate speranza. Che sia una battuta, ma vi giuro che non è così. Comunque, cari saluti dalla Nuova Zelanda, ci ascolta un ascoltatore dalla Nuova Zelanda, il numero su WhatsApp è 006421, sì, quindi è dalla Nuova Zelanda. Faremo l'autostrada del mare fino Roma, Nuova Zelanda. Roma, Auckland. Auckland. E porteremo il mare fino a Roma. Esatto. Allora, al 34. Com'è il numero? Me lo sono perso. 34. Com'è il numero degli sms? Oddio, un vuoto totale. 348. No, 349. Niente, basta, poi sono smalvato. 349-238-6666, eccolo qua. Peter si è rinsavito, è tornato lui. Allora, cara Luisella, vuoi parlarmi delle primarie? Dai, parliamo delle primarie. È il quarto giorno che parliamo delle primarie, no? Per rovinarci la giornata. Dai, su, cosa dobbiamo dire ancora di queste primarie? È una tristezza, cioè, voglio dire, abbiamo visto... voti comprati, rappresentanti di centrodestra ai seggi, peraltro, ma insomma, ormai il legame col centrodestra è diventato questo. Un partito di centrodestra. Schede bianche per aumentare l'affluenza, cinesi in fila, che poi è stato poveri a Milano. Cinesi adesso. Eh? Poveri cinesi, non possono votare a Milano. No, dico sì, no, ma sono stati encomiabili, hanno votato, hanno pagato perché si pagava per le primarie, poi non potranno votare chi hanno scelto alle amministrative, a meno che non abbiano la cittadinanza, ed è il bello che anche se sono neodiciottenni non beccheranno il bonus perché sono extracomunitari, cioè abbiamo questa insomma partecipazione che è veramente allucinante, ma veramente brogli di fronte ai quali il PD dice no, tutto a posto. Dichiarazione della Valente che ha vinto a Napoli oggi al Corriere della Sera: sono state le primarie migliori di sempre a Napoli nella storia. Ma a me fa pena, cioè veramente anche lei di fronte a quelle immagini, di fronte a quei filmati, cioè direi scusate, vabbè, rifacciamo, è stata veramente una roba vergognosa. Io credo che ci sia una fetta di elettorato, ma in generale non solo del PD, che ha una sana passione politica e che si vede queste cose, l'hanno viste tutti gli italiani, e il PD continua a dire no, è andato tutto bene, tutto regolare, tutto, una regolare, tutto a posto, tutto a posto. È veramente vergognoso. Cioè, vabbè, niente, sei peggio di D'Alema, sei peggio di D'Alema, ormai sei più critica di D'Alema nei confronti di Renzi. Io sono sempre stata critica, ho sempre analizzato critica, diciamo che cerco di smascherare le balle. La smascheratrice, ecco, Vladimir, tu queste primarie ti hanno appassionata? No, a parte che adesso non so se è più incazzoso D'Alema o Renzi, perché dopo D'Alema, Renzi, ragazzi, un Renzi un po' dalemoso, un po' suscetti, un po' permaloso, a tal punto che a questo punto comincio a sospettare che la faccia davvero la Salerno-Reggio Calabria, perché si sta esponendo così tanto. Ma che non è che non è una battuta. Ci fa veramente questo regalo. Si impegnerà su questo, anche perché, scusa, sai, oggi ecco c'è l'anticipazione. Sapete che da giorni si dice che Renzi sta studiando una cosa per le amministrative, una promessa sulle tasse. Sì, sulle tasse. No, senti forte, perché oggi Libero fa un'anticipazione. Dice, abbiamo scoperto cosa farà, a proposito di Salerno-Reggio Calabria. Prometterà, sotto elezioni, di cancellare il bollo auto. Il bollo auto! 50 milioni di italiani lo pagano. Vladimir, paghi il bollo auto? Certo che lo pago. Saresti contenta se ti toglie il bollo auto? Sotto elezioni magari lo voti così. Bisogna vedere poi quale altra tassa ci mettono da qualche altra parte. Questo, no? È vero. No, ma quello che riguarda le primarie, invece, devo dire che secondo me, cioè, le primarie sono uno strumento bello, insomma, è bello vedere le folle da Hillary Clinton, le folle persino da Donald Trump, perché comunque libertà e partecipazione, è bello vedere la partecipazione. Il problema è che le primarie finora sono state un fallimento in Italia. Devo dire, non solo quelle del PD, ma secondo me anche quelle del Movimento 5 Stelle, perché a casa tranquilli, questi click pochissimi, forse anche mezzo controllati. Il centrodestra che proprio non le... L'unico che ha ragione è Berlusconi, perché ha sempre detto nelle primarie, no? Lui fa le confermarie, è Bertolaso confermato, visto, approvato. Decisione divina, decisione divina. Esatto. No, forse bisognerebbe fare delle regole, magari un registro degli iscritti, fare un po' come in America, dove non è che proprio tutti possono andare a votare farle regolate. Perché pensate che anche persone del centrodestra vanno a votare per il PD, quindi insomma. Pensate che addirittura D'Alema, in questa intervista oggi al Corriere, parla talmente male di tutti che anche ce l'ha con Orfini, presidente del PD, che è una sua creatura. A un certo punto dicono, di Orfini dice, qui siamo alla stupidità. Ma come alla stupidità? Il giornalista del Corriere dice, ma è una sua creatura. Ma ognuno nella vita evolve nel senso che crede, no? Orfini, di cui il senatore Movimento 5 Stelle Morra, dice che bisognerebbe fare una cosa forse con l'Accademia della Crusca a questo punto e cambiare. Dopo Petaloso, sentite Morra. Non userò più eufemismi. Leggevo sempre sui social una simpatica proposta: sostituire un famoso epiteto faccia da puntini puntini con faccia da Orfini. Faccia da Orfini, Costa Magna. Qual era l'epiteto? Cioè, cosa significherebbe secondo Morra per te? Faccia da Orfini a partire da oggi. Immagino la faccia di Tolla. Cioè, faccia da Tolla, sta male, esatto. Sta male. Ma... Dopodiché, voglio dire, non è il primo e non è l'unico che sia passato sul carro di Renzi rinnegando il passato, ma il dramma vero è davvero quello di dover riapprezzare D'Alema o Bassolino, cioè io lungi dal difendere Bassolino, però non si può che dargli ragione di fronte a queste primarie quando capite che ci ritroviamo a difendere Bassolino, cioè quello tra l'altro che è stato pescato a dare l'euro totido, l'euro, questo Antonio Borriello, è notoriamente, lo dicono tutti a Napoli, uno che fino a poco tempo fa era un portava valanghe di voti a Bassolino. Cioè era uno no, giusto per no, ma le primarie a Napoli furono già annullate una volta, appunto. Io ho avuto ospite l'anno scorso Cuperlo che ipotizzò dei brogli anche alle primarie in cui vinse Renzi, cioè tutte le primarie che abbiamo visto, mi disse probabile, visto che c'era stato il casino, anche in Liguria, voglio dire, non so dove sia sparita l'indagine della procura per i brogli durante le primarie in cui vinse la Paita e poi perse Conferati. È così, ha ragione Vladimir, ha ragione. Bisogna vincere a tutti i costi, con peraltro candidature secondo me assolutamente a perdere e farlocche. No, Vladimir, hai ragione tu, vanno regolate. Però facciamo così, andiamo alle informazioni sul traffico, perché poi vi devo far sentire una biancofiore spettacolare. Se riesco anche... Sì, vedo l'ora. Non vedi l'ora? Forse anche se ce la facciamo un Donald Trump spettacolo tra poco, Scusa, mio amore, non è che non ti volevo sposare. C'era il traffico. Chi non è d'accordo con le linee del partito va a casa, non crea un altro gruppo, basta. L'unica cosa importante in Italia è non cambiare la propria squadra di calcio. Poi per il resto puoi fare quello che vuoi. Buongiorno Milan! O ti sei reso conto che la politica in Italia è uno schifo, o ti sei trasformato e sei diventato grillino. Ciao Milan! Oh Alino! Allora, il nuovo nome delle votazioni del PD lo facciamo fare a De Luca, da primarie a babbarie. Omina, sono Fiorentino e io WhatsApp non ce l'ho, e assai se c'è questo telefono, e assai se mando messaggi e se rispondo, sono un po' ignorante. Senti, l'altra sera ti ho mandato un selfie a Ganzo, ma l'hai ricevuto o non l'hai ricevuto? Quello era il telefono di una mia amica, capito? Ci si vede, ciao! No, Fiorentino, non l'ho ricevuto e vorrei non riceverlo, perché poi i miei bambini prendono in mano il cellulare, il selfie della tua amica, non lo so. Vladimir, io eviterei, se possibile. Sembra il film Perfetti Sconosciuti, poi. Esatto, straordinario film, tra l'altro, devo dire. Allora, siamo con Luisella Costamagna, con Vladimir Luxuria, che poi alle 9, ricordo, su Radio Capital, il Geco, la Farfalla. Allora, Micaela Biancofiore parlava di immigrazione, lei altatesina, bella, bionda, prestante, aitante, eccola qua. L'immigrazione, soprattutto quella economica, clandestina, è fatta per lo più di giovani di 20, 21 anni, dai 18 ai 20 anni, maschi. Sì. Immaginate le nostre ragazze belle, bionde, eteree, che sono che non parlano neanche la lingua, che sono religiosissime, cristianissime, perché l'Alto Adige è una terra estremamente cristiana, che si troveranno, tra virgolette, invase da giovani che sono... Cioè, purtroppo sono mossi anche, diciamo così, talvolta dagli ormoni, diciamo così, saprei come dirlo in un'altra maniera, insomma. In un'altra maniera, più chiaro di così, non si può, insomma. Vladimir, effettivamente questa, no, non vorrei che ci cambiassero da bionde altatesine, poi... Qui sì che c'è da ridere, un po' amaramente, ma c'è un po' da ridere, perché, insomma... parlare di voglio dire, allora ci sarebbe da ridere. No, ma vai diretta al punto, non è che non fai giro. No, tra l'altro, voglio dire, chi ha visto il video ha visto anche un brunetto. Sì, che tenta di frenarla, che tenta di fermarla a dire no. No, che stai dicendo? Che stai dicendo? E poi l'ha detta. Allora, esatto. Ci sarebbe da ridere se non mi venissero in mente adesso le immagini di questi profughi, di tutti i bambini che sono morti in mare, delle donne che rischiano la vita, di questi profughi, per cui insomma sinceramente buttarla così in cacciara sul problema dell'immigrazione, paventando i fatti di colonia nell'Alto Atesino, mi sembra davvero brutto, cioè si accadono dei reati, si accadono delle violenze, vengono affrontate, ma vedere queste persone che scappano dalla disperazione solo come potenziali stupratori di donne bellissime, alte, bionde, cristiane. Ma proprio insidiano la bionditudine altoatesina, la purezza, ecco, dai, diciamolo, Luisella, ce l'avevo qui da 10 minuti, la purezza della razza, ecco, diciamolo così. Anche la Costa Magna è alta, bionda. Infatti, cioè, voglio dire, ma insomma... Sì, nord-ovest. No, vabbè, a me viene teniamo da subito, da... lei teniamo subito a specificare, sono del nord-ovest. Sono. No, non sono altoatesina, sono torinese, ma certo. Voglio dire, mi sembra che l'unico ormone partito sia quello della Biancofiore, per cui... Sì. Poi sulle vicende di Colonia mi sembra che poi sia stato dimostrato che era una mezza bufala il fatto che fossero coinvolti tutti questi profughi. Beh, adesso mezza bufala no. Beh. No, mi sembra che siano stati coinvolti in 3 di tutti quelli che erano stati indicati, per cui l'ondata ci aveva portato a... Diciamo erano un insieme di sporcaccioni, ecco, mettiamola così. Poi, esatto, che non necessariamente erano extracomunitari o profughi, però al di là delle battute diciamo che... È una cosa sulla quale bisognerebbe essere seri quando si parla di immigrazione. Mi sembra che ci sia, tra le varie mancanze di verità del governo Renzi, ci sia anche una mancanza di verità nei confronti sul fronte internazionale per capire come davvero è intenzione di gestire l'immigrazione, se entriamo o non entriamo in guerra in Libia, cosa è successo a Regeni in Egitto e soprattutto, perché io veramente, poi uno si alza, ride, sorride, io trovo che la cosa più vergognosa delle ultime ore sia stata la telefonata che ho letto ieri sul Corriere della moglie della vedova di Failla lì è successo un casino, nel senso l'abbiamo adesso abbandonato, è brutto dire, però non siamo stati in grado di gestirla questa cosa. Sì, c'è una moglie che ha ricevuto un'ultima telefonata a ottobre dal marito che gli chiedeva di aiutarlo, di parlare con i telegiornali e con la stampa, e la Farnesina che gli ha detto no, non creiamo clamore perché stiamo lavorando, e lei adesso se l'è trovato tornato in Italia morto, e oltre a gestire il dolore deve gestire il senso di colpa di non aver fatto nulla. È vero. Io però... credo che questa sia una vergogna che uccide qualunque sorriso che possiamo avere nei confronti della gestione dei problemi da parte di questo altro governo. Altro che la questione Biancofiore. Allora voglio farvi sentire questo intanto. Taormina dice questa cosa di Nichi Vendola per la famosa questione, insomma, maternità surrogata, la zanzara. La cosa dell'utero in affitto è veramente una cosa di una gravità unica. Lo arresteresti o no? Lo arresteresti o no? Io sì. Lo arresterei, cara Vladimir Lux. Ma sai che ho letto da qualche parte che forse farai la madrina di battesimo? Ma è vera? No, non è assolutamente vera, non me l'ha mai chiesto. Ma l'hai sentito, più? L'hai sentito dopo? Sì, gli ho fatto gli auguri come si fanno sempre. Certo. Dovrebbero sempre fare gli auguri. Perché adesso è indipendente. Però lei ha detto fatto... auguri ai figli trans? No, gli ho detto no. Auguri ai figli bisex. Così. Auguri ai figli bisex, gli ha detto. No, ma è vero. Almeno Vendola, almeno le battute le capisce. Ah, ma è vero, allora gli hai fatta così. Auguri ai figli bisex. Allora, guarda, io penso che indipendentemente dal fatto di essere d'accordo o meno con la gestazione per altri, perché io continuo a fare la distinzione tra gestazione per altri e utero in affitto, io penso che bisognerebbe non riversare sul neonato, su quello appena nato, diciamo così, quelle che uno potrebbe pensare come colpe dei genitori. Quindi, insomma, questo sì. E poi l'idea dell'arresto, insomma... Vabbè, ma è Taormina, dai. Allora, dobbiamo fermarci qui. Vi voglio far sentire però in conclusione, ringraziandovi, uno straordinario documento su Donald Trump. Donald Trump ha... l'ossessione della Cina, China. Allora c'è chi ha montato tutte le volte in cui dice China. E vi lascio così. Donald Trump. China. I love them. China. Because China. You know, China. I know China very well. Il segnale orario vi è offerto da... Index protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere.

Ma chi se ne frega!